Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. La comunità mondiale dell'intelligenza artificiale si sta mobilitando contro l'epidemia di Covid-19, a partire da una proposta lanciata da IperIA, che è l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, proposta subito accolta da CLAIRE, che è il più grande network al mondo per la ricerca appunto sull'intelligenza artificiale. È nato così un coordinamento, la Task Force Covid-19, il cui obiettivo è, diciamo, raccogliere le proposte e mettere a sistema le competenze di professionisti che sono sparsi in tutto il mondo. Questa task force è guidata da Gianluca Bontempi, che è professore di machine learning dell'Università Libera di Bruxelles, e da Emanuela Girardi, che è membro del gruppo di esperti sull'intelligenza artificiale del MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché membro di IperIA. Emanuela Girardi in linea con noi per dirci, insomma, come sta andando e farci un quadro di cosa possono fare le tecnologie di intelligenza artificiale per sostenere questa battaglia contro il SARS-CoV-2. Buonasera, buonasera Emanuela. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. E sì, noi siamo partiti un po', diciamo, analizzando quella che era l'esperienza della Cina, di Taiwan, la Corea del Sud, Singapore, che hanno utilizzato anche le tecnologie di intelligenza artificiale nella gestione della crisi, sia per gestirla che per limitare un po' la diffusione del Covid-19. E quindi abbiamo deciso di lanciare una sorta di chiamata alle armi, chiaramente su base volontaria, lanciata alla comunità europea di intelligenza artificiale, e abbiamo creato questa task force per affiancare e supportare i governi e i sistemi sanitari europei. L'obiettivo della task force era, da una parte, quello di raccogliere le best practice e di condividerle a livello europeo, e dall'altra invece di dare un supporto su alcune esigenze specifiche che possono arrivare o da agenzie governative oppure direttamente da ospedali o da medici che ci stanno contattando. Quindi una sorta di coordinamento europeo su tutte queste iniziative. E, l'abbiamo lanciata pochi giorni fa e ad oggi abbiamo già 75 istituti di ricerca, università europee che si sono rese disponibili a partecipare a questi progetti, e 24 progetti che hanno sottomesso, che adesso stiamo valutando e dando le varie priorità. E magari ci risentiremo per parlare un po' più nello specifico di questi progetti. Per intanto invece ti chiedo di farci un po' una panoramica di quelle che sono le possibili applicazioni di intelligenza artificiale che possono servire in questo caso per combattere questa epidemia. Sì, allora, beh, innanzitutto quando si parla di intelligenza artificiale normalmente si parla di analisi dei dati. Ovviamente i dati possono essere più disparati, e, per esempio possono essere, non so, l'analisi dei dati delle terapie intensive. In questi casi, per esempio, si possono utilizzare le tecnologie di machine learning, cioè di apprendimento automatico, per evidenziare in modo anticipato alcuni fenomeni e dare un supporto decisionale o valutare meglio alcune priorità, per esempio nel triage o piuttosto nelle terapie da utilizzare, o per valutare per esempio quali tipi di farmaci antivirali usare o quali opzioni terapeutiche utilizzare. Un altro caso potrebbe essere quello dell'analisi dei dati invece molecolari proteici, cioè dare, come le tecnologie di intelligenza artificiale possono dare un supporto alla ricerca molecolare. Consentendo di sperimentare, diciamo, virtualmente delle molecole, di selezionare in un vasto campo di possibili molecole quelle che possono avere più successo. Sì, esatto. Infatti in questo caso si possono utilizzare le tecnologie di AI per individuare appunto la struttura di proteine associate al Covid-19, per ridurre quello che è il numero esponenziale, perché sono tantissime, altrimenti sarebbero milioni, le combinazioni su cui testare. Da una parte c'è eventualmente i potenziali vaccini e dall'altra invece l'effetto di antivirali esistenti. Un'altra area interessante è quella dove si possono utilizzare le tecnologie di NPL, quindi della elaborazione del linguaggio naturale, per analizzare quelli che sono gli articoli scientifici. Questo è molto interessante perché è stato promosso un paio di giorni fa un progetto negli Stati Uniti che era stato promosso dalla Casa Bianca insieme all'Allen Institute, e hanno reso disponibile a tutto il mondo della ricerca un database con circa 29.000 articoli scientifici proprio sul Covid-19, e quindi utilizzando le tecnologie di intelligenza artificiale si possono, cioè, analizzare tutti e trovare eventualmente delle risposte o delle correlazioni tra i vari studi. Un'altra area interessante per quanto riguarda sempre l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale è quella dell'analisi dei dati sulla mobilità invece. Sì, questo forse è l'aspetto più noto, il famoso modello Corea, sì. No? Quello per cui esatto, si cerca di capire se persone infette, incrociando i tracciati GPS e quant'altro, sono entrate in contatto con altre persone. Esatto, in realtà ci sono delle soluzioni anche che stanno nascendo, sia anche in Italia, no? Ho letto qualche app in Italia che stanno sviluppando, e sia una molto interessante che è stata presentata la settimana scorsa, che è stata sviluppata dall'MIT Lab, che si chiama SafePath, che sembra che abbia sviluppato un algoritmo che utilizza un encryption particolare per chiaramente mantenere la privacy dei dati degli utilizzatori. L'unico limite di questa app, secondo me, è che è su base volontaria, cioè i contagiati dovrebbero mettere i propri dati su questa app, anche se poi chiaramente non potrebbero essere riconosciuti, e quindi si chiama SafePath, cioè mette insieme appunto i dati se un contagiato è stato in un luogo. A quel punto un'altra persona che utilizza quell'app può sapere, andando in un supermercato piuttosto che in una farmacia o in qualche altro luogo, se quel luogo è a rischio. Questo serve sia per le persone, cioè che appunto possono sapere se un luogo è a rischio o meno, o se sono entrate in contatto con qualcuno che era stato contagiato, e sia anche per poter fare degli interventi di sanificazione, dove chiaramente sono state presenti delle persone che avevano contratto il virus. Poi c'è l'utilizzo dei chatbot, per esempio, per dare informazioni senza tenere persone impegnate, c'è l'intelligenza artificiale utilizzata per individuare le fake news, ne parleremo di questo tra pochi giorni, ma poi c'è un aspetto legato anche alla logistica. Sì, si possono utilizzare anche in questo caso le tecnologie di intelligenza artificiale per la pianificazione e la gestione delle risorse. In questo caso possono aiutare tantissimo la programmazione delle cosiddette risorse scarse negli ospedali. Per esempio, non so, i turni piuttosto che i posti letto, oppure la parte proprio di logistica, cioè delle merce magazzino. Allora, grazie Emanuela Girardi, ci risentiremo. Grazie a voi e arrivederci presto. Cari ascoltatori, abbiamo concluso. Buona serata.